Giovedì 21 luglio del 2016, Radio Onda Rossa, ed eccoci a Visionari. Il cinema su questa emittente tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e cominciamo quasi sempre un po' prima, anche data l'assenza del giornale radio. Per seguirci in diretta 87.9 è la modulazione di frequenza, e però c'è anche lo streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi potete consultare sempre il sito internet, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, e l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cominciamo con i nostri ospiti. Eccoci con Ilaria Marchini, regista del documentario The Invasion a Coipumentari. Ilaria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Tutto bene? Sì. Senti, a Coipumentari, come mai questo sottotitolo? Perché il nome scientifico della nutria, l'animale di cui si parla nel documentario, è Miocastor coipus, e quindi, siccome esistono i mockumentary, i rockumentary, noi abbiamo fatto un coipumentary, ovvero un documentario riguardante le nutrie. Senti, come è nata questa esigenza? Io abito nel Basso Mantovano, dove le nutrie sono molto, molto diffuse. E quindi l'esigenza è nata da una mia curiosità, volevo conoscerle meglio perché ne sentivo parlare, avevo sentito tantissime leggende metropolitane sul conto di questi animali, non sapevo esattamente da dove venissero, come fossero arrivate nella nostra zona. Di conseguenza ho iniziato ad approfondire la cosa, e mi è venuta l'idea di realizzare un documentario. Senti, l'approccio è piuttosto scientifico. Sì, abbiamo realizzato numerose interviste ad esperti, siamo stati anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, poi abbiamo intervistato biologi, persone che comunque si sono occupate di studi sull'argomento, ma abbiamo intervistato anche gente comune proprio per mettere a confronto quelle che sono le dicerie più diffuse rispetto a quella che poi effettivamente è la realtà. Senti, un animale introdotto per la sua pelliccia, una pelliccia di minor pregio rispetto a quella di castoro, poi cos'è successo? È successo che verso la fine degli anni 60 la pelliccia è passata di moda e gli allevatori hanno purtroppo pensato bene di disfarsi degli animali mettendoli nel nostro ambiente. Un gesto, diciamo, che ha portato alla conseguenza del fatto che gli animali poi si sono adattati al nostro ambiente e si sono largamente diffusi, soprattutto anche perché, negli ultimi decenni. Anche perché non hanno nemici naturali. Qualche predatore naturale in realtà c'è, che comunque preda soprattutto i cuccioli, gli esemplari, sì, quindi di piccole dimensioni, però è chiaro che la diffusione viene anche dal fatto che sono animali che hanno saputo adattarsi molto bene per la disponibilità anche di nutrimento e la disponibilità anche di corsi d'acqua, perché sono animali semiacquatici. Tra l'altro ho scoperto che è un animale commestibile, come ci informa il documentario. Esistono anche delle sagre delle nutrie. Sì, diciamo, ci sono alcuni casi particolari. C'è anche chi recentemente sta incoraggiando questo tipo di soluzione, chiamiamola soluzione, ma in realtà non è per niente soluzione, anche perché comunque nel momento in cui un animale alloctono, perché la nutria rientra nel gruppo delle specie animali alloctone, cioè non originarie di un ambiente, quindi introdotte artificialmente dall'uomo, quando un animale alloctono diventa fonte di guadagno, come appunto nel caso si volesse ipoteticamente creare un business dietro appunto al consumo delle carni della nutria, ci si ritrova poi in una situazione che fa sì che chi comunque si occupa del contenimento di questi animali ne fa in modo che comunque ne rimangano, perché diventano una fonte di guadagno. per cui c'è sicuramente una soluzione. Senti, questo discorso sulla nutria si allarga chiaramente a tutte le modifiche che comporta l'azione umana sull'ambiente, soprattutto rispetto alla fauna, dagli animali a rischio di estinzione ad animali che vengono spostati da una zona all'altra, creando poi dei problemi perché alterano gli equilibri. Esatto, infatti lo scopo del documentario è quello di, oltre appunto a far conoscere meglio questi animali, è anche quello di mostrare quello che è accaduto per impedire il ripetersi dei medesimi errori, perché purtroppo con molta leggerezza magari capita che ci sono persone che si recano anche banalmente a una fiera di animali esotici, acquistano un animale, poi si stancano di detenerlo, parlo ad esempio di tartarughe o rettili, e quindi poi magari lo liberano vicino al fiume o comunque nell'ambiente, nelle nostre campagne, e poi le conseguenze possono essere purtroppo analoghe a quelle che si sono verificate con il caso della nutria. Senti, altrove hanno avuto gli stessi problemi ma hanno risolto il problema più o meno definitivamente. Ecco, cosa sta succedendo in Italia? Allora, il caso della nutria in Italia è estremamente complesso, infatti nel documentario vengono analizzate tutte le sfaccettature legate appunto a quello che è stato fatto negli ultimi decenni, perché è accaduto che si è intervenuti molto tardi per cercare di, diciamo, arginare il problema, si è intervenuti molto tardi. Questo però ha fatto sì che comunque nell'arco di 15-20 anni, quindi a partire dagli anni 90, dalla metà degli anni 90 fino al 2014, sono stati attuati in larga parte delle regioni italiane, soprattutto il nord, piani di contenimento per appunto abbattere un tot numero di esemplari e far sì che il numero delle nutrie presenti nel territorio si mantenesse a un livello basso, però il risultato non è stato ottenuto assolutamente, perché anzi si è scoperto che comunque le nutrie sanno adattarsi molto bene anche a situazioni di pericolo, cioè ci sono meccanismi ormonali che determinano il fatto che nel momento in cui l'animale percepisce una situazione di pericolo, come appunto l'abbattimento mediante arma da fuoco o altri mezzi, diventa più prolifico, per cui alla fine, cioè adesso l'ho molto semplificato il concetto, in realtà è un po' più complesso, sì, sì. Però in ogni caso, giusto per far capire quello che è accaduto, il numero degli animali è aumentato tantissimo nell'arco degli ultimi decenni. Poi c'è stata una recente modifica alla normativa, perché fino al 2014, fino ad agosto 2014 erano le province a coordinare questi piani di contenimento. Dopodiché con questa legge, che ha convertito in legge il decreto legge 91 e quindi ha modificato l'articolo 2 della legge 157/92, che è la legge che norma la gestione della fauna selvatica e l'esercizio dell'attività venatoria, le nutrie sono state equiparate a ratti topi arvicole, quindi non sono più annoverate tra la fauna selvatica, quindi non sono più, diciamo, gestite dallo Stato, ma sono gestite direttamente dai comuni. Mediante apposite ordinanze, ordinanze spesso discutibili, che comunque sono volte a cercare di risolvere il problema, però fino ad ora la situazione rimane invariata, ecco. Senti, il tuo documentario che percorso sta facendo? È attualmente su distribuzioni dal basso, quindi distribuito attraverso questa piattaforma che consente il sì sì, conosciamo bene, sì. Sono nostri ospiti spesso, insomma, sì. E abbiamo comunque fino ad ora organizzato alcune proiezioni presso associazioni interessate alla tematica, mi sono state fatte fino ad ora tre principali, anzi quattro, di cui una anche in Sicilia, e comunque siamo appunto, siamo sempre disponibili qualora venga richiesta una proiezione. Senti, puoi darci dei riferimenti internet, se esiste una pagina, un sito internet? Sì, il sito è www.theinvasion.it e oltre agli aggiornamenti riguardanti le prossime proiezioni, il sito raccoglie anche informazioni, notizie e curiosità riguardanti la nutria. Benissimo. Allora Ilaria, un ringraziamento e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ilaria Marchini, regista del documentario The Invasion e coi Piumentari. Vanni Gandolfo, co-regista del documentario Me ne frego, il fascismo e la lingua italiana, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Vanni. Buongiorno, ciao. Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Allora, per strada, quindi spero che si senta bene. Sì, sì, sì, ti sentiamo. È la seconda volta che ci sentiamo, un altro tuo documentario, ho avuto modo di vederlo su Italian Doc, molto interessante. Allora, raccontiamolo a chi ci ascolta. Allora, Me ne frego racconta un periodo della storia italiana forse poco conosciuto, nel senso durante il fascismo il regime decide di non imporre semplicemente una divisa a tutti quanti, ma cerca di cambiare anche le abitudini della gente, quindi la lingua. Errore clamoroso, perché la divisa magari la gente se la mette, ma e se la toglie anche con grande facilità, finito tutto, mentre la lingua tocca il cuore delle persone. Parliamo di un paese che ancora parlava dialetto sostanzialmente, un paese che era munito da pochissimi, da pochi decenni, e quindi insomma il tentativo fallito del regime di unificare una lingua degli italiani, con dei tentativi, con delle insomma dei tentativi assurdi, dall'italianizzazione delle parole inglesi al divieto dei cognomi stranieri e tante altre cose. Senti, per la costruzione di questo lavoro, come ti sei documentato, Vanni? Allora, l'idea nasce da Valeria Della Valle, che è una delle più importanti linguiste italiane, che ha dedicato a questo argomento molti anni di studio. Sì. E nasce appunto da un incontro tra Valeria Della Valle e Luce, Istituto Luce Cinecittà. Sì. Io venivo da una serie fatta per sempre Istituto Luce Cinecittà su dei grandi discorsi che hanno cambiato la storia, per cui ci hanno fatto incontrare e pensavamo di trovare tantissimo materiale almeno sulla storia del divieto del lei in favore del voi. Sì. Invece guardando gli archivi non c'era assolutamente niente, perché l'unica voce concessa durante il fascismo era o la voce ufficiale degli speaker, dello speaker, perché ce n'era praticamente uno solo, oppure la voce di Mussolini, che era l'unico che poteva parlare. Quindi ci siamo trovati davanti al vuoto, non c'era assolutamente nulla, per cui abbiamo deciso di... L'altro aspetto che ci affascinava e che ci ha permesso poi di raccontare questa storia era la propaganda. L'Istituto Luce era l'organo di propaganda, per cui visto adesso è anche il materiale, l'archivio è bellissimo, nel senso che è un pezzo di storia girato molto bene, però era propaganda, per cui non era la realtà, non certo. Era era quello che il regime voleva far passare al popolo, e quindi se l'abbiamo costruito partendo proprio da questo e poi trovando ogni tanto delle cose, delle chicche anche molto particolari, e raccontando una storia molto molto corale, perché l'abbiamo costruito con delle citazioni di letterati e del tempo. Senti, uno dei discorsi interessanti del documentario è proprio il linguaggio come strumento di controllo, e dall'uso di una determinata terminologia all'arte oratoria. Insomma, è un tentativo che poi fallì, anche perché per il discorso sul dialetto che facevi, però è interessante come i regimi, in questo caso il fascismo, cerchino di attuare proprio un controllo capillare proprio attraverso la lingua. Ma come dicevo prima, controllare la lingua è controllare il cuore delle persone. Sì. Tant'è che appunto l'esempio che facevo prima delle divise, la camicia nera, moltissimi italiani se la sono messa e se la sono anche tolta appena non andava più di moda. E noi abbiamo fatto una ricerca molto particolare, che secondo me è forse l'aspetto più interessante del documentario. Io mi sono nel 31 in Italia arriva la presa diretta. Sì. Diciamo, il Luce comincia a fare i primi documentari, i primi cinegiornali in presa diretta. Il che vuol dire? Che raccoglievano i suoni i suoni ambientali delle città. Fanno pochissimi documentari, pochissimi cinegiornali con la presa diretta, perché si accorgono, e questo l'abbiamo trovato appunto in pochissimi, saranno 7-8 al massimo, si accorgono che la gente non parla la lingua di Mussolini, la gente non parla la lingua ufficiale del regime, ma parla appunto il dialetto, parla una lingua sgrammaticata, si dà del lei, non si dà del voi. Lei considerato femmineo tra l'altro, sì. Per cui la presa diretta viene subito cancellata, viene subito non vietata, però si evita di farla, sì, in favore di uno speaker ufficiale, in questo caso la voce ufficiale del regime, che è Guido Notari, scritta e approvata in persona da Benito Mussolini, che si dice che guardasse tutti i cinegiornali nella sua residenza. Senti, inquietante, sì. Discorso, hanno tolto sì. la possibilità di ascoltare la realtà, insomma, quindi. Sì, sì, sì, una realtà costruita. Esatto. Diciamo poi che percorso. Allora, intanto un'altra nota interessante è l'uso dell'ironia nella costruzione del documentario. Questo approccio, ecco, come vi è venuto? Ma diciamo che io cerco sempre di fare dei documentari che abbiano un tono non leggero, ma più ironico, nel sì, senso che secondo sì. me il documentario è un bellissimo mezzo, è un bellissimo, una bellissima forma di espressione, e credo che debba arrivare a quante più persone possibili, per cui riuscire ad avere un tono più leggero o comunque più, ma a volte anche ironico, secondo me è un valore aggiunto. L'ironia è venuta sicuramente dal montaggio, dalle situazioni che si alternano, dalle vignette. Io ho fatto una grossa ricerca sulle vignette dell'epoca, trovate in un'antologia scovata a casa, in una situazione molto particolare, dove c'erano raccolte tantissime vignette dell'epoca. Le vignette sono ovviamente un mezzo per fare dell'ironia del tempo, di ogni certo, tempo, per certo. cui magari non le capiamo, invece abbiamo cercato di mettere insieme tantissimi elementi, senza mai ridicolizzare però il repertorio, perché secondo noi aveva comunque un suo valore. Come dicevo prima, è propaganda, quindi è una realtà non edulcorata, di più è un'immagine completamente artefatta, però ha un suo, vista adesso, un suo valore, ha un suo valore importante, secondo me, comunque una testimonianza di un'epoca, cioè anche un modo per capire un'epoca di cui si è detto molto, e non, per esempio, nessuno aveva mai parlato in un documentario della questione della lingua. Sì, sarà la prima volta che che è stato fatto. E il discorso sulla lingua ha avuto due grossi momenti determinanti: la prima guerra mondiale, quindi la trincea, sì, i vari dialetti che si incontravano, e poi l'avvento della televisione di massa che ha comunque, esatto, diffuso. Infatti si dice che gli italiani si uniscono per la prima volta, diventano un popolo unito per la prima volta durante la prima guerra mondiale. Gente del nord e del sud si incontrano in trincea a difendere un confine ideale, sì, che magari non era condiviso, comunque non nella testa di qualcuno, insomma. Esatto, sì, chiaramente, ovvio. però appunto spesso non si capiva neanche. Abbiamo trovato un film dell'epoca in cui appunto ci sono soldati di vari reggimenti, di varie regioni, che non si capiscono. Sì. La televisione è chiaramente invece poi quel collante che arriva nella metà degli anni 50 e porta veramente una sorta di lingua anche lì. Non è probabilmente l'italiano puro, sì, è una lingua televisiva che, sì, però arrivando in massa nelle case degli italiani chiaramente fa più presa e diventa una cosa molto molto insomma che spopola, infatti, sì, sì, noi cerchiamo, chiudiamo in, appunto, con, non dico con mai con giorno, ma quasi, insomma. Sì, sì, sì. Senti Vanni, come sarà e quando sarà fruibile questo documentario a livello più allargato? Me ne frego, è già uscito, non è un lavoro nuovissimo, è uscito 2 anni fa, è stato a Venezia, è disponibile in DVD, in streaming, ci sono, okay. Ha avuto un bel percorso per adesso, so, per il Luce sarà forse il titolo un po' particolare, l'argomento che comunque sicuramente abbiamo visto che è piaciuto molto. È un documentario che sta andando molto bene, ne siamo molto contenti. E tra l'altro non invecchia, va sempre bene in quanto a studio sulla lingua italiana, insomma, su un determinato, sì, periodo devo storico. Devo dire che Valeria Della Valle, la coautrice, che è accademica della Cusca e ha appunto un importante linguista, ha avuto i massimi riconoscimenti su questo documentario, mm-hmm, che è stato approvato dai massimi studiosi della lingua italiana, in quanto appunto un po' il primo, ma comunque insomma, è un lavoro che si è mantenuto bene in equilibrio, mm-hmm, su questo discorso. Vanni, tu stai anche per portare qualcosa ad un festival prossimamente? Non sappiamo. Per scaramanzia non lo sappiamo ancora, forse sì, un altro lavoro in collaborazione con Valeria Della Valle, sempre in una produzione di Istituto Luce Cinecittà, sempre sull'argomento, sul periodo fascista. Questa volta parliamo della fondazione di Cinecittà, l'anno prossimo cadono gli 80 anni. E Cinecittà fu una visione molto particolare di un burocrate fascista che voleva trasformare il cinema italiano in un'industria. Un po' di megalomania, un po' di visione industriale, però è riuscito a porre le basi, diciamo, di quello che poi è stato il cinema, il bellissimo cinema italiano moderno dagli anni 40 in poi, sì, dal dopoguerra in poi. Soprattutto quindi, la stagione del neorealismo. Esattamente. Da quella in poi. Probabilmente senza la politica di Luigi Freddi, questo era il suo nome, non sarebbe stato possibile. Mm-hmm. E quindi un altro film sul ventennio, però sempre visto in modo molto critico e molto da un altro punto di vista, appunto questa volta il cinema. Il titolo è L'arma più forte, siamo rimasti negli slogan, però è più un gioco questo, sì, di cui non ti converrà proporre la pagina Facebook. No, perché l'abbiamo già fatto con Me ne frego e non è stato e non ha funzionato, insomma. Non ha funzionato perché, nonostante noi avessimo spiegato in tutti i modi che si trattava della pagina di un documentario che non aveva niente di politico, e niente, i nostalgici arrivavano a frotte settimanalmente, perché a un certo punto l'ho dovuta chiudere, rassegnato, cioè, vabbè, non si può andare avanti. Incredibile. Avevamo migliaia di di iscritti veramente, veramente una nostalgica. Cozzaglia terribile. Esatto, perché, basta. Quindi penso che non la, sull'arma più forte non la prenderemo nemmeno. No, per carità. Ma veramente c'è tanta ironia dietro tutto questo, ci tengo a precisarlo, nel senso che il appunto anche la scelta dei titoli è volutamente ironica. Le locandine sono sempre ironiche, chiamano molto il lavoro di Monty Python, quindi certo. Sacrante, insomma, c'è un purtroppo non tutti lo colgono, insomma. No vabbè. Però scherzando, abbiamo detto, beh, se lo slogan funzionava funzionerà anche come titolo, e me ne frego, funziona. Bene Vanni, allora grazie, ci sentiamo mille. Alla prossima, a questo punto volentieri, dai, un abbraccio, buona giornata, grazie, ciao ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Vanni Gandolfo, co-regista del documentario Me ne frego, il fascismo e la lingua italiana. Ci sei? Eccoci, abbiamo mi sentite? Vi sentiamo, Giancarlo Bertalero e Filippo Ciardi, registi del documentario Attraverso le Alpi. Dovremmo avere entrambi in linea. Ci siete? Ci siamo. Buongiorno. Allora, per comodità possiamo fare un'alternanza alle risposte. Allora, un documentario che ha tenuto anche un riconoscimento all'appena trascorso Cinema Ambiente a Torino. Raccontiamo un po' di cosa si tratta, cos'è Attraverso le Alpi. Vado io, che sono Giancarlo, buongiorno a tutti. Attraverso le Alpi è un documentario sul traffico prevalentemente di merci attraverso l'arco alpino tutto, e cerca di raccontare come il nostro paese, l'Italia, dipende da questo flusso continuo di merci in entrata dall'estero e prodotti che noi facciamo con queste materie prime, che escono attraverso sempre le Alpi, come può essere entra il legno, esce la carta, entra il grano, esce la pasta, eccetera. E come dunque, diciamo, c'è un cordone ombelicale che ci unisce all'Europa dal punto di vista economico, e naturalmente tutta la parte umana e le persone che rendono questo possibile. Oh, com'è nata l'esigenza di questo lavoro? Beh, questa penso quindi tocchi a me. Io sono Filippo Ciardi. Ciao Filippo. È nata da un incontro con Giancarlo, che è un esperto di logistica. Io invece sono un giornalista e videomaker freelance con un background in economia, e quindi Giancarlo, se poi potrà dire meglio, ma ha fatto un'importantissima ricerca sui trasporti transalpini. Da questi dati l'idea di metterci insieme e di trasformarli nelle storie, e quindi di iniziare a viaggiare per approfondire, per capire chi muove questi treni, questi camion, queste merci. Oh, il traffico di merci avete stabilito che funziona ed è importante, e il pensiero va subito anche alla questione Val di Susa. Che ci dite in proposito? Ecco, sì, risponde, sono io, Giancarlo. Dunque, beh, certo, la Val di Susa viene in mente subito perché la cronaca porta lì. Beh, prima mi collego subito alla tua prima frase, che in realtà sono tante, no? Le merci sono 10 milioni di camion all'anno e 200 milioni di tonnellate. Presso la Val di Susa ne passa una piccolissima parte. Noi abbiamo voluto far vedere con questo documentario che per capire qualcosa bisogna avere una visione complessiva dell'arco alpino, che è lungo 1200 chilometri, e la Val di Susa è uno di quei passaggi importanti, ma è uno dei tanti. Abbiamo cercato di contestualizzare quello che succede lì in un scenario molto più ampio. E cosa diciamo? Diciamo che col documentario siamo riusciti, secondo me, poi chiedo a Filippo di confermare, ma siamo riusciti a non guidare lo spettatore verso una direzione predefinita. Diamo delle informazioni in più. Dunque non è un film pro o contro, è un film che spiega com'è importante, quanto è importante che siamo collegati in Europa. Poi il come, con quali buchi, lasciamo allo spettatore dopo il film farsi un'idea. E proprio a questo proposito, allora mi viene da chiedervi se la rete adesso in funzione è già sufficiente ed efficace. Beh, se tocca una risposta, questa risposta è una risposta complessa. Noi abbiamo cercato di far rispondere su questo i manager di imprese di trasporto internazionale, attori istituzionali, perché appunto, come diceva Giancarlo, sia lo spettatore a farsi anche un'idea attraverso ovviamente l'esperienza e la competenza di chi gestisce questa rete, e che ne gestisce un pezzo effettivamente, perché ovviamente si tratta di imprese internazionali che gestiscono alcune tratte in alcune modalità. Quindi noi mostriamo un intersecarsi di modalità ferroviaria, di autotrasporto, quindi camion, anche i porti, quindi il collegamento con i porti, con il mare, e altro ancora, e quindi è un sistema molto complesso, che è sempre un po', diciamo, quel che viene fuori sicuramente è che c'è un equilibrio, in alcuni casi anche piuttosto fragile, perché deve tenere in conto di ovviamente questioni ambientali, questioni economiche, questioni strutturali, tecniche. Mi hai detto degli interlocutori, cioè chi gestisce le linee, e rispetto, ecco, per esempio citavi la questione ambientale, ecco, le popolazioni interessate da questi e da questa rete sono anche loro tra i vostri interlocutori nel documentario? Esatto, infatti abbiamo, diciamo, quello che siamo riusciti a fare è mettere insieme interlocutori di vario tipo, sì, come ha detto Filippo, gli amministratori delegati delle ferrovie piuttosto che trasportatori, ma anche la Commissione europea, fino ad aggiungere la popolazione, ovviamente con il limite di un documentario. Ci sono delle testimonianze della popolazione, c'è la testimonianza, secondo noi, molto importante di CIPRA, che è la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, che mette insieme tutte le associazioni ambientaliste, dunque è sicuramente una visione diciamo a favore della protezione delle Alpi, dunque vede, diciamo, fa delle approfondite analisi sulla necessità o meno di fare nuove infrastrutture. E mettere insieme tutte queste voci che per noi, secondo noi, il documentario dà un valore aggiunto proprio per questo motivo, perché uno ha modo di sentire tutti e le motivazioni di tutti, poi si fa un'idea delle opzioni che stiamo, come Paese Italia, come Europa, stiamo decidendo. Però ci sono sicuramente degli elementi che, ecco, molti vedendo il documentario escono e dicono: non avevo capito che la situazione era questa. Ecco, questo secondo me è giusto, Filippo, cosa dici? Sì. Ovviamente non abbiamo potuto, ritornando anche alla domanda, visto anche, insomma, il motivo di dover fare un documentario di una lunghezza che attualmente è 80 minuti, sì, non potevamo su ogni passo, attraversamento, sì, alpino, intervistare tutte le popolazioni interessate, perché sarebbe stato complessissimo anche trovare proprio un referente. Sono d'accordo appunto con quello che dice Giancarlo, in più ci sono appunto delle testimonianze anche di persone che abbiamo trovato su questi attraversamenti, che per noi sono un po' simboliche, ecco, sono simboliche. Soprattutto una, ne citerei, di una ragazza francese in Val Roya, sull'attraversamento che riguarda il tunnel di Tenda, che per noi è un po' simbolica anche di altri, come dire, situazioni dove ovviamente ci sono delle questioni critiche da valutare, cioè ci sono delle infrastrutture in fase di raddoppio o di creazione, ecco, per cui dato la preferenza un po' a chi ha dato delle testimonianze, come dire, documentate, pacate, cercando di esprimere una visione, ecco, insomma, da parte anche dal punto di vista del cittadino, senza mettersi necessariamente contro o qualcosa a prescindere. Ecco, questo è un po' la nostra, insomma, quel che abbiamo fatto. Allora, Giancarlo e Filippo, in chiusura volevo chiedervi un paio di cose. Se ci sarà un'ipotesi di distribuzione o uscita in sala o passaggio televisivo, e poi se ci sono riferimenti web per saperne di più. Rispondo prima io, poi chiedo a Filippo di completare. Dunque, e prima di tutto, sì, c'è un sito web che è attraversolealpi.net, dove si può anche vedere il trailer e si possono avere informazioni maggiori. C'è il nostro indirizzo email, che è attraversolealpi@gmail.com. Per la distribuzione non abbiamo accordi in questo momento con televisioni, ma stiamo cercando di portarlo attraverso i festival in vari posti, ma sicuramente abbiamo delle difficoltà a farlo conoscere a un pubblico più vasto. E per questo, come dice Filippo, facciamo un appello. Sì, certo. Penso che se non era di Roma, se magari per la capitale ci aiutate a farlo vedere a Roma, e magari anche a approfittare di eventualmente di una nostra visita insieme al documentario per degli appuntamenti con dei distributori romani o con delle televisioni che sappiamo hanno sede a Roma. E quindi, no, a parte gli scherzi, è vero, cioè è un lavoro indipendente, anche se poi comunque sostenuto da degli sponsor internazionali che ci siamo cercati, insomma, faticando, ma anche comunque con la soddisfazione poi di aver ritrovati per fare un prodotto professionale, per cui essendo appunto un prodotto di cui, insomma, siamo particolarmente orgogliosi e professionale, però appunto siamo degli indipendenti, abbiamo bisogno di supporto nei contatti, perché, insomma, ecco, ci prendano sul serio come parte noi due, insomma il prodotto, insomma, il progetto, insomma, secondo le prime testimonianze, appunto la vittoria di questo premio e alcune testimonianze di chi l'ha visto, i primi che l'hanno visto, insomma, ci confermano che vale, per cui, ecco. Bene. A fine agosto saremo al festival della Lessinia, vicino al lago di Garda, dunque tra il 20 e il 28 agosto, e poi altre date le stiamo fissando, ma appunto a Roma non abbiamo ancora un appoggio, dunque questo, siamo disponibili. Questo è il fatto, è il dato. Va bene, allora un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie a voi dell'ospitalità. Ciao. Salutoni, ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Giancarlo Bertalero e Filippo Ciardi, registi del documentario Attraverso le Alpi, premiato all'appena trascorso Cinema Ambiente di Torino. Continuiamo a parlare di trasporto nell'arco alpino. Dopo il documentario Attraverso le Alpi, premiato al Cinema Ambiente, è la volta della Val di Susa, che abbiamo citato nella precedente telefonata. Ne parliamo con Elio Germano, che è in Val di Susa perché ci sarà da domani a domenica, una 3 giorni, 22, 23 e 24, la prima edizione del Festival Alta Felicità Venaus. Elio, ciao. Allora, siamo qui nel pieno nei pieni preparativi, quindi cerco una zona dove non sentite i rumori degli scarichi, di tutte le cose, il materiale, le cucine che pullulano già di roba da mangiare. E niente, è tutto pronto, quindi aspettiamo la gente che viene per questi 3 giorni, appunto, del Festival dell'Alta Felicità, così abbiamo deciso di chiamarlo, per raccontare un po' una differenza, no, tra un mondo appunto della competizione, dell'alta velocità, dei rapporti fatti soltanto tra cliente e venditore, no? E qui vogliamo fare invece un festival della differenza, cioè di quello che in valle, questo che ci viene, trova già, ha già trovato, e cioè un gruppo di persone che, unite da una lotta che dura da 25 anni, si rapportano tra loro come esseri umani, scavalcando le lotte intestine per vendersi cose l'un l'altro, che ci allontanano così tanto a noi invece nelle nostre città. Qui appunto questa realtà, questo modo di vivere il presente esiste già, la lotta, 25 anni di lotta hanno unito queste persone in maniera diversa, è la prima cosa che si coglie venendo qui, e un po' a tutti quegli artisti come me che hanno avuto la fortuna di venirci qui, ci sentivamo un po' egoisti ad avere questa immagine, questa festa appunto valsusina, a tenercela tutta per noi, abbiamo deciso di esportarla in 3 giorni cercando di invitare quante più persone possibili. Quello che succede qua piuttosto che raccontarlo. Elio, erano un po' di mesi che mi parlavi di questo progetto al quale hai partecipato attivamente per la costruzione, una rassegna, un festival pensato a misura d'uomo, giusto? Sì, proprio a passo d'uomo. Abbiamo deciso di, appunto, anche giocando un po' con vari simboli, insomma, di tenere le macchine lontane, per cui si per chiunque verrà, anzi, insomma, io invito tutti a venire, perché se a Roma fa caldo qua si sta benissimo, è un paradiso, ci sono dei posti fantastici, tra l'altro sono previste gite a piedi, perché così a piedi è una delle differenze in cui si scoprono delle piccole cose che invece ti fanno riscoprire un mondo di vivere diverso. Sono organizzato, appunto, verremo a prendere tutti a Susa, un festival è a Venaus, per cui sono delle navette dalla stazione di Susa per raggiungere il festival, qui facciamo tutto a piedi, quindi ci sono varie postazioni sia di cibi, come potete immaginare la valle si è espressa in maniera incredibile sulla presentazione di prodotti locali, e c'è un'infinità di cose da bere e da mangiare, cioè c'è un mercato consapevole dove si vendono varie cose appunto con uno spirito di rapporto, come dire, orizzontale e personale tra chi vende e chi compra, e quindi abbattendo quelle distanze, appunto mercato consapevole, perché in qualche maniera puoi sapere dalla persona che hai di fronte da dove viene quello che ti vende e cos'è. E quindi sai, un po' tutto ragionato in questa cosa, a misura d'uomo, perché pensiamo che l'uomo abbia ancora questo tipo di misura qua la montagna ti aiuta molto a ricordarsi un po' da dove veniamo, anche noi storicamente in quanto italiani, insomma, e tutti i nostri nonni ci raccontano di questo mondo qua che abbiamo un po' perduto. Era un modo di stare insieme veramente, che faceva della collettività la prima anche necessità di sopravvivenza. E abbiamo vissuto un po' in questi anni questo capovolgimento culturale, no? Ci hanno fatto credere che invece la gara, la supremazia l'un l'altro fossero veramente ciò che poi ti riempie e che ti dà soddisfazione. Qui scopri qualcosa di diverso, e quindi il festival ha un po' questo tipo di voglia, ma ci sono tantissimi, io vorrei dire anche le persone che ci saranno a suonare, perché sì, infatti talmente... Elio, oltre alle alla possibilità di mangiare tutti insieme e alle escursioni durante il giorno, sul palco si alterneranno musica e letture. Assolutamente, sono vari punti sparsi qui per la valle dove ci saranno dei reading con Vuming 1, Vuming 2 e Luca Mercalli, poi ci sarà Chef Rubio che anche cucinerà da un'altra parte, succedono tantissime cose contemporaneamente, c'è un grande palco che vi invito a vedere anche sulle pagine Facebook, perché è stato uno sforzo enorme sempre grazie a tutti qua, i valdigiani, tirarlo su, è una cosa bellissima in questa arena naturale, e verranno a suonare appunto da domani, c'è da Rocco Hunt addirittura Nino Frassica che viene con il suo gruppo, c'è DJ Graf, gli Assalti Frontali, poi invece sabato viene Eugenio Finardi, i 99 Poste, Chaos One con Lucci, Mao, ci sono tantissimi, la Mad Street Orchestra, Antonio Pascuzzo, e poi per finire il 24 luglio, che è la domenica, con i Subsonica, Enzi, Blue Beaters, i Pancreas, il Muro del Canto, insomma cito un po' così a memoria, ma il panorama è veramente, cioè c'è un'offerta musicale veramente che in questo caso speriamo, cioè che sarà di condivisione. Quindi vorremmo ripetere un po' quello che succede anche a Taranto ogni anno, no? Sperando certo. Quel rapporto diverso anche tra gli artisti e il pubblico, prima perché condivideranno lo spazio mettendo le tende una accanto all'altra, e poi perché appunto non c'è niente da vendere, niente da comprare, solo da condividere della bella musica e tanti ragionamenti insieme, per cui crediamo che questo sia il modo migliore per raccontare questa battaglia in un modo appunto sganciandola, cercando anche di costringere i media a sganciarsi dall'unica direzione in cui raccontano questo posto, che è un fronte di black bloc terroristi e pericolosissimi, ecco. Siccome poi chi viene qua scopre che è tutt'altro, lo scopo del festival è quello di, invece che raccontarlo, di farlo condividere quello che è in realtà, e magari poi quando uno si vede un telegiornale dopo essere stato qui capisce appunto qual è la direzione in cui vogliono spingere la notizia, perché insomma quello che è qui l'ha visto con i suoi occhi, insomma, per cui speriamo che insomma di avere molto molta affluenza proprio per questo motivo. Benissimo, allora ricordiamo a Venaus in Val di Susa da venerdì 22 a domenica 24 luglio, prima edizione del Festival Alta Felicità, sul palco tanta musica, tante letture. Elio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio grande a te. Ciao, ciao, ciao. Elio Germano per questa prima edizione del Festival Alta Felicità. Agostino Ferrente di Apollo 11 per parlarci del Louisiana Party all'Angelo Mai qui a Roma domani venerdì 22 luglio per la festa, una festa di chiusura estiva. Agostino, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Allora, dici un po'. Beh, è una festa che ci autoconcediamo dopo aver, come si dice, lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come tu sai bene che ci sostieni, tu, la tua radio, i tuoi ascoltatori che saluto con affetto, stiamo resistendo con la R maiuscola in controtendenza con le sale che chiudono, noi invece siamo in crescita, dopo aver dedicato per anni la nostra attività al lancio del cinema dal vero, quando ancora il documentario pubblico normale lo considerava, come dire, una roba da animali che si accoppiano, quark, eccetera. E noi siamo stati, come dire, orientati sull'obiettivo di far capire al pubblico che non è solo quello dei cinefili, dei festival, che il documentario è un film, e quindi abbiamo creato degli eventi, abbiamo invitato gli scrittori a sostenere la proiezione, paesologi piuttosto che altri ospiti, siamo stati un po' dei pionieri, perché per fortuna siamo contenti, poi questo tipo di approccio è stato, come dire, si è sviluppato, ormai, come dire, non è più una novità vedere un film documentario sul grande schermo, addirittura esce in sala al cinema, addirittura vince dei festival internazionali, e possiamo dire con orgoglio che tutti questi miei colleghi, amici, fraterni, fratelli maggiori in alcuni casi ormai e miei fratelli minori, sono tutti passati dall'Apollo, hanno fatto parte del nostro cantiere creativo, sono stati conosciuti da noi e fatti conoscere, e dopo aver raggiunto questo risultato di cui siamo fieri, anche se stranamente da una parte il documentario si è emancipato dal pregiudizio, abbiamo detto che ormai, come dire, c'è sempre un documento importante in una competizione di feste internazionali, dall'altra i finanziamenti per realizzarli sono purtroppo di gran lunga stati falciati, però questo rientra in un discorso generale che colpisce tutto il cinema, anche di finzione, e noi, come dire, raggiunto questo obiettivo, sai che c'è adesso, non viviamo su giallori. Alziamo l'asticella dell'obiettivo e abbiamo detto facciamo una programmazione che non si riduca a un evento a settimana, per preparare il quale comunque ci vuole una grande fatica, diamo al pubblico la possibilità di vedere cose belle 7 giorni su 7, anche con 2-3 eventi al giorno. Questo in generale è una cosa che facciamo per la città di Roma, ma anche per il quartiere in cui si trova il nostro centro aggregativo, lo chiamo così, che altrimenti veramente, insomma, è un quartiere difficile, la sera le luci sospente, siamo vicini a San Lorenzo ma siamo così diametralmente opposti, e poi succedono fatti, diciamo, di cronaca purtroppo molto efferata, e diciamo che come dire, preferiamo la prevenzione con la cultura e non con la repressione militare, per cui tutto questo, che lo dico a fare non solo senza aiuti istituzionali, ma spesso e volentieri con le istituzioni che ci mettono il bastone fra le ruote. Però, scusa, apro una parentesi, lo dicevo nel mio piccolo intervento, sì, nella serata di sostegno al Baobab, Io da immigrato, figlio di immigrati e nipote di immigrati, devo dire che i miei 25 anni vissuti a Roma mi hanno restituito una realtà molto chiara, cioè le cose più belle fatte a Roma le hanno fatte autonomamente dei ragazzi che si sono uniti tra loro e non solo si sono sostituiti alle istituzioni, ma invece che si è ringraziati dalle istituzioni sono stati ostacolati dalle istituzioni, laddove è dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale i soldi c'erano e venivano spartiti da gente infame, e invece queste realtà non sono mai state sostenute, sia che facessero cose sociali o cose culturali, ma sono state osteggiate. Chiusa la parentesi, che ritengo doverosa, noi siamo riusciti, come dicevo, adesso è un anno, a chiudere questa stagione raccogliendo dei film che sono stati presi, individuati nei palmarès dei più importanti paesi internazionali, film di finzione, quindi non solo documentari, e li abbiamo proiettati all'Apollo dando una chance di distribuzione che altrimenti non avevano, e salvaguardandoli d'identità artistica, perché abbiamo puntato sempre sulla lingua originale con i sottotitoli italiani, cosa che ai distributori mainstream non piace molto, dà molto fastidio perché lo spettatore è imbecille e non sa leggere i sottotitoli, o forse perché bisogna sostenere la pensione dei doppiatori, e quindi diciamo che l'esperimento è andato benissimo, siamo felicissimi, e dopo una fatica così che si è conclusa anche con la minaccia di dover abbandonare i locali sempre per le ragioni di qui sopra, adesso penso che ci possiamo dedicare, autoconcedere un festeggiamento estivo che è anche un arrivederci, e che faremo insieme ai cuginetti dell'Angelo Mai nel loro giardino meraviglioso Nocturama, Angelo Mai via del Terme di Caracalla, credo 53, ma insomma chiunque sa l'indirizzo lo trova su internet o su Facebook, e incrociamo, diciamo, tutti questi discorsi che abbiamo fatto, ovvero presenteremo in anteprima mondiale il progetto, cioè di film non ancora concluso, quindi non il film ma proprio l'idea del film di Roberto Minervini, il prossimo film che realizzerà, che riguarda la figura di un musicista mitico, quindi che è il primo musicista nero che poi gli americani hanno fatto suonare a Parigi, Ted Belly, che Led Belly è stato praticamente scoperto da un signore americano che lo ha portato a New York a esibirsi. Era una situazione un po' strana, ambigua, perché da una parte gli ha dato una chance di fare l'artista, dall'altra però gli faceva fare lo chauffeur, l'autista, quindi come dire, sempre con una visione un po' colonialista, dalle sue esibizioni moltissima storia della musica mondiale, non solo americana, ne ha tratto ispirazione. E Roberto vuole realizzare un film, che è un documentario storico, interpretato da un musicista che in questo momento lui ha scoperto a New Orleans, è un Los Angelino che però si è trasferito a New Orleans, cioè ha 25 anni, suona, è un puro, è una persona fantastica, si chiama Chris Christie, e per la prima volta in vita sua lascia gli Stati Uniti, viene a Roma, arriva praticamente stasera, andiamo a prendere all'aeroporto, e suonerà dopo la proiezione del film Louisiana, che tutti conoscono, tra l'altro tornato di tragica attualità visti i fatti recenti avvenuti in Louisiana, Baton Rouge eccetera, e dopo la proiezione di Louisiana ci sarà questa jam session con il concerto di Chris Christie, e accompagnato dai musicisti dell'Angelo Mai, del collettivo Angelo Mai, capitanati dal maestro Valerio Vigliar. Ci sarà anche una piccola chicca, perché ci sarà come ospite Enzo Della Volpe del film Le Cose Belle, di cui diciamo Vigliar è stato il produttore artistico dell'ultimo disco coprodotto, che sarà inserito nel cofanetto distribuito a luce col film, il libro e il disco delle Cose Belle, chiusa parentesi, auto diciamo promozionale, e ci sarà questo concerto anche con ospiti a sorpresa, un concerto tutto orientato sul tipo di musica che fa Chris, e quindi c'è un gesto di, come devo dire, di accoglienza, è un segnale di benvenuto che gli diamo, e giustamente Roberto insieme a Dario Zonta, che è il suo fratello, diciamo il suo angelo custode, vuole raccontare al pubblico l'idea che c'ha, e idealmente ripercorrere lo stesso tragitto che aveva visto questo musicista a cui è ispirato il film, cioè di dare la possibilità a un musicista di suonare fuori dalla sua patria. Infatti praticamente all'epoca successe per Parigi, a lui succede con Roma, e ci sarà questa scoperta questa sera, e poi ci sarà un DJ set curato da Soul Kitchen, sarà insomma la possibilità per bersi un drink e fare le ore piccole ballando aspettando l'alba. In tutto questo la pressione avverrà col buio, perché chiaramente siamo in un'arena, e chi verrà prima a prendere posto, che i posti sono limitati, insomma potrà godersi un buon drink al tramonto in un giardino meraviglioso sotto gli alberi, e che appunto è l'Angelo Mai. Quindi è una festa fatta tra cugini che la pensano allo stesso modo, e Apollo 11 va in trasferta e vi aspettiamo tutti là, ecco. Bene. Allora Agostino, un abbraccio, ci si vede a Louisiana Park. Aspetto Federico, aspetto i ragazzi, c'è anche una sorpresa, nel senso che sarà che svelo, ma insomma siccome lì non si può fare rumore, c'è come dire c'è il coprifuoco sonoro, perché non bisogna dar fastidio alla stagione lirica delle Terme di Caracalla, e quindi il suono ci potrà essere solo da mezzanotte in poi. Insomma, solita storia di Davide e Golia, e allora gli spettatori verranno muniti di una cuffia, e quindi il film ci sarà e ognuno potrà ascoltarselo in cuffia, una cuffia wireless, e i posti e le cuffie sono limitate, quindi chi ci tiene a vedere il film e non l'ha visto lo vuole rivedere, è un film molto importante, e insomma gli consiglio di venire un po' prima. Un abbraccio e ci si vede domani. A te, ciao Federico, ciao. Agostino Ferrente di Apollo 11 su Louisiana Party all'Angelo Mai qui a Roma domani venerdì 22 luglio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Matteo Raffaelli, regista del documentario La linea del Pasubio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Matteo. Grazie a voi di avermi invitato, buon pomeriggio a tutti. Allora, un lavoro che è stato presentato a Taormina, raccontaci un po' di questa storia, Matteo. Allora, La linea del Pasubio ovviamente è un documentario sulla Prima Guerra Mondiale, che parla appunto della battaglia feroce e drammatica che si è combattuta sulle prealpi vicentine, quindi siamo nel territorio del Veneto, ed è diciamo la storia di una piccola guerra dentro il grande scenario della Prima Guerra Mondiale, che poi diciamo è nel piccolo tra virgolette metafora di quello che poi è successo un po' in tutta Europa. Naturalmente nasce dalla grande occasione di riaffrontare i temi della Prima Guerra Mondiale, che poi hanno anche determinato in maniera sostanziale il Novecento e tutto quello che poi è successo nel Novecento, e l'occasione appunto è stata il centenario quest'anno, che è appunto dal 1915 al 1918, quindi fino al 2018 ci sono una serie di attività legate appunto alla commemorazione, e più che commemorazione direi l'occasione per riaprire un capitolo davvero fondamentale del Novecento italiano ed europeo. E la battaglia sul Monte Pasubio è emblematica, perché un territorio assolutamente desertico, privo di acqua, di qualunque risorsa e anche quindi di qualunque interesse, all'improvviso con l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale viene definito strategico per impedire appunto che gli austriaci riescano a invadere potenzialmente la Valle Vicentina, quindi diventa oggetto appunto degli scontri militari dell'esercito italiano e dell'esercito dall'altra parte austro-ungarico. Quindi dicevo, in un territorio assolutamente desertico, l'altopiano il Pasubio è quasi una specie di altopiano, siamo intorno ai 2000-2100 metri d'altezza, dove non c'è nessun praticamente niente, non esiste nulla, viene costruito tutto un apparato, tutto un sistema militare molto complesso, dotato di gallerie, teleferiche, tutta una serie di strutture anche che dovevano servire a ospitare in qualche modo i militari, e naturalmente diventa la terra di battaglia di tutta quell'area, una delle aree maggiormente contese di tutto il fronte tridentino. Mm-hmm. Quindi diciamo veramente un luogo molto molto combattuto aspramente, in cui sono morte moltissime persone. Ecco, questo in estrema sintesi. Sì, ovviamente. Senti Matteo, come hai deciso di strutturare questo lavoro? Dunque, questo lavoro l'ho strutturato non come un documentario storico tout court, sì, ma piuttosto come una ricostruzione in qualche modo emotiva, no? Cioè, è chiaro che la storia non puoi non considerarla, cioè non puoi non studiare, non farti le ossa su quelli che sono, diciamo, alcuni dei testi fondamentali sia delle battaglie del Vesuvio, sia più in generale della Prima Guerra Mondiale, ma comunque quello che ho cercato di fare è di restituire da un punto di vista emotivo quello che era lo stato d'animo e la condizione dei soldati in quelle condizioni. E per questa ragione abbiamo scelto insieme al produttore Marco Nereo Rotelli, che poi è anche un grande artista, abbiamo scelto Peppe Servillo per leggere e interpretare le lettere dei soldati che hanno combattuto lì, o i diari che hanno scritto mentre erano al fronte. Questo per dare proprio la prospettiva, il punto di vista del singolo, dell'essere umano, con tutte le sue molteplici contraddizioni. E naturalmente, questo è chiaro, abbiamo anche cercato poi di narrare per sommi capi quelli che sono gli eventi salienti che hanno contraddistinto la battaglia del Vesuvio, quindi un iniziale arrivo delle truppe italiane abbastanza tranquillo, relativamente tranquillo, la Strafe Expedition, cioè la spedizione, cosiddetta spedizione punitiva, che gli austriaci poi mettono in atto nel maggio del 1916, e nella quale muoiono veramente tantissime persone, perché per pochissimo non riescono a sfondare le linee italiane, fino a che i due eserciti si bloccano su delle posizioni, diciamo così, rigide. Quindi diventa a tutti gli effetti quella che poi sarà in tutta Europa, cioè una guerra di posizione, fino a che si arriva all'assurdo finale, cioè la guerra in galleria. Si incominciano a scavare delle gallerie dentro la montagna, fino a che gli austriaci non fanno brillare questa enorme mina, tentativo disperato, e fanno brillare fanno saltare la più grande mina che sia mai stata fatta saltare nella storia della Prima Guerra Mondiale. Parliamo di 50.000 kg di tritolo, che sventrano una parte intera della montagna e cambiano per sempre poi addirittura la morfologia proprio del territorio. Naturalmente uno sforzo inutile, che è poi metafora essa stessa della guerra e del suo significato, diciamo così, più generale, ecco. Senti Matteo, dove e quando sarà possibile vedere il tuo lavoro? Allora, io spero che sarà possibile vederlo presto in televisione, perché il documentario è stato acquisito, diciamo, all'inizio dell'anno nel catalogo dell'Istituto Luce, e quindi oltre a fare, diciamo, nell'autunno una, diciamo, distribuzione più istituzionale attraverso le scuole, eccetera, o circoli d'essai, poi l'idea è quella, ovviamente, di venderlo a quelli che sono i canali tematici, o comunque i grandi contenitori, appunto, di storia che ci sono in questo momento in Italia, perché è un prodotto, diciamo, io credo particolarmente funzionale rispetto a tutta una serie di argomenti che stanno andando molto bene in televisione, appunto, legati ai temi della Grande Guerra, o comunque alle ricostruzioni storiche, anche se è un documentario dai mezzi contenuti, sì, però appunto racconta delle storie emotivamente veramente molto forti, ecco. Ecco, la prima guerra mondiale è un argomento sul quale siamo tornati parecchie volte, sia per quanto riguarda film che per lavori teatrali, nell'altra trasmissione del martedì che sia appunto radioteatro. E l'elemento più interessante che mi sembra sia emerso da queste, chiamiamole, celebrazioni, sia il tentativo di riabilitazione nei confronti dei tanti fucilati con l'accusa di tradimento o diserzione. Guarda, assolutamente, quello che io ho cercato di raccontare nel mio documentario è la dimensione dell'essere umano, no? Sì. Perché c'è un enorme problema legato alla storia della Prima Guerra Mondiale che è stato creato con la propaganda, diciamo così, messa in campo nel ventennio, quindi negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, che hanno voluto far diventare il singolo soldato che ha partecipato a questo evento, certo nella gran parte delle volte non per sua scelta, e l'hanno voluto far diventare un eroe, no? Questa trasformazione completamente politica e strumentale di quella che è stata invece l'esperienza umana dei singoli all'interno del grande contenitore Prima Guerra Mondiale, secondo me è una delle cose più gravi che è stata fatta, cioè restituire l'umanità a queste persone tutte, perché chi anche ha disertato, e lo ha fatto molto spesso pagandolo con la vita, perché come sa perfettamente chi si occupa di Prima Guerra Mondiale, ai margini della prima linea o dei teatri di battaglia c'erano i carabinieri che fermavano tutti, e chi non dimostrava di avere le carte in regola o poteva anche semplicemente essere sospettato di diserzione veniva immediatamente passato per le armi. Quindi era una situazione veramente durissima sia per chi decideva di disertare e spesso appunto moriva, sia per chi non disertava e moriva ugualmente, perché comunque la percentuale di mortalità al fronte era altissima. Sì. Quindi non solo sono assolutamente d'accordo con questo, ma più in generale secondo me dovremmo restituire l'umanità a tutte le persone, l'immagine di umanità alle persone che hanno partecipato a questi scontri, perché in effetti l'umanità è quella che gli è stata tolta all'interno dell'esperienza cosiddetta liminare, come la definiva Eric Lied nel suo saggio Terra di Nessuno, insomma. Bene Matteo, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buon ciao. Proseguimento. Grazie, ciao, ciao. Matteo Raffaelli, regista del documentario La linea del Pasubio. Eccoci con Mario Acampa, attore del film Press, Storie di false verità. Mario, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti, è un onore e un piacere. Allora, Press, Storie di false verità, ho letto qualche cosa in rete perché questo lavoro sta girando un po', mi sembra molto curioso, allora parliamone un po', Mario, di che operazione si tratta? Beh, è la storia di un pazzo fondamentalmente, è un film si titola appunto Press, Storie di false verità, perché il sottotitolo dovrebbe dare un po' l'idea di quello che succede. C'è di un confine sottile tra quello che è realtà, quello che è follia e anche un po' quella che è la linea della coscienza di tutti quanti. La storia di un giovane giornalista che si chiama Maurizio Nardi, che interpreto io, e che si trova a un certo punto ad avere il contratto in scadenza, a rischio di perdere il lavoro, e lavorando in una rete privata un po' così inizia ad inventare, anzi a decorare, guarda come sono buono, a decorare un po' le notizie che trova, finché si lascia prendere un po' la mano e inizia proprio ad inventarle. Questo ovviamente farà capitare lui e il suo compagno Luca nella vita, Gianluca Guastella, che è la co-star di questo film, in una serie di vicissitudini un po' al limite del surreale, ma di sicuro esilaranti, e che fanno anche un po' pensare cosa siamo disposti a fare pur di seguire, insomma, i nostri sogni, le nostre aspirazioni. Com'è nato tutto, Mario? Ma guarda, è nato dall'idea di Paolo Bertini e Alessandro Izzetta, che sono anche, oltre che sceneggiatori, i registi del film, insieme a Marco Panichella, che è il terzo sceneggiatore. E ci siamo, hanno fatto dei casting, quindi ci siamo poi incontrati per decidere di questo ruolo. La loro idea era quella di fare, a tanti anni fa, un cortometraggio, e poi si sono lasciati prendere dalla scrittura, perché effettivamente c'era tantissimo materiale, quindi hanno trovato finalmente il produttore, un produttore che ha creduto in noi, Maurizio, nella loro idea soprattutto in primis, che è Maurizio Ferrone di Luna Film, che ringrazio perché veramente è stato lungimirante. E poi successivamente FIP, Film Investimenti Piemonte, ha creduto in noi, quindi ha dato un contributo, il Ministero e poi Film Commission, la collaborazione, e poi la prestigiosa anche collaborazione di Rai Cinema, che comunque ha dato il sostegno all'operazione. E così voilà, siamo finalmente nelle sale, abbiamo debuttato a Torino con un Tutto Esaurito qualche settimana fa, e tanti minuti di applausi, devo dire, ero anche un po' in imbarazzo, e poi adesso siamo in giro per l'Italia, state le pellicole stanno girando grazie all'Istituto Luce Cinecittà, che ci distribuisce su Roma, su Milano, Tortona, siamo andati al Festival, Fossano, insomma sta girando, speriamo che arrivi un po' dappertutto a macchia d'olio. Senti, stavo pensando rispetto a questa storia, che è tutta italiana, immagino, come vicenda. Ne ragionavo parlando di uno spettacolo teatrale, e sulla, rispetto all'informazione e alla stampa in Italia, stavo controllando anche in rete il fatto che quest'anno l'Italia è al 77° posto a livello internazionale in quanto a libertà di informazione. Libertà di stampa, sì. lo so. Formato come al solito. Sì, guarda, io ogni volta c'è ad entrare. Il film viene visto sempre in due modi molto diversi, sì. E credo che sia sempre affascinante come un'opera d'arte possa essere, di qualunque livello, insomma, si parla sempre di arte, come possa essere recepita dal pubblico. Allora, io dal canto mio, attorialmente parlando, quando mi sono confrontato con il personaggio, devo dire, ho fatto un lavoro sulla verità e quindi sulla storia di un ragazzo come tanti che vorrebbe, ha un sogno, non riesce a farlo perché continuano a mettergli i bastoni tra le ruote, quindi sì. Sono andato sul suo obiettivo principale, che è quello di avere successo, cercando di non giudicare il mio personaggio. Anche un attore coach americano che mi segue, e insomma, quando si parla di Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins come obiettivo non aveva quello di mangiare la gente, ma quello di avere un amico, e lui su quello si è concentrato quando ha fatto il film, ed è la stessa cosa che un po' ho fatto io, non mi sono concentrato sul resto. Guardandolo invece da occhio esterno, io credo che sia presto una grandissima occasione per riflettere anche sul senso che ha il giornalismo oggi in Italia, ma non tanto per come viene fatto, perché come al solito c'è una grandissima offerta, ci sono tanti punti di vista. Io credo che questo sia sempre comunque positivo, cioè il fatto che ci sia un confronto culturale, che le persone possano parlare, esprimere la propria opinione, a volte devo dire opinioni anche molto stupide, ma sono sempre soggettivate e considerate tali, quindi è giusto che qualcuno, ognuno si faccia la propria idea. Quello che è importante e che è quello che, insomma, che dico, insegno anche a mio nipote, e quello che provo ad insegnare, è quello di vedere quello che accade sempre con nell'ottica proprio di apprezzare più punti di vista possibili, e di cercare di non versi per forza qualunque cosa che ti venga rifilata dai giornali. Abbiamo la possibilità di informarci adesso, perché noi potremmo anche essere all'ultimo posto di qualunque classifica del mondo, ma ognuno di noi ha il modo di informarsi, ha la possibilità di andare a ricercare le notizie, di interessarsi, di entrare in una libreria, in una biblioteca, di fare quello che la ground strategy che utilizzano in America in moltissime università, è quello che è il confronto tra quello che è la storia, quello che è successo, che la storia ci insegna fino adesso, e quello che sta accadendo oggi. E a volte è inquietante come la storia si ripete, i paralleli siano moltissimi. Quindi la possibilità di informarci ce l'abbiamo e dobbiamo utilizzarla. Quindi la verità è che è la nostra coscienza personale che si deve smuovere, non tanto una critica a un giornalista, un giornalismo piuttosto che a un altro tipo di giornalismo, o a un giornalista piuttosto che a un altro, perché ognuno ha la libertà di esprimersi un po' come crede. Questo credo che sia necessario riflettere su questo, cioè sul senso della nostra coscienza personale, anche un po' di smuoversi, uscire un po' dalla nostra stanzetta mentale, da guardare le cose con un'altra prospettiva. Questo film lo fa in maniera provocatoria, volutamente provocatoria, non vogliamo dare, non c'è mai una morale tutto visto il film, quindi lo sai, non c'è il senso, non c'è quel moralismo scontato, si fa così, è giusto così, è sbagliato così, non c'è questo. C'è un ti piace che ci siano alcune cose che vanno così? Effettivamente alcune cose vanno così. Ti piace? E questo è il mondo in cui vorresti vivere? E questa è un po' la domanda che dovremmo farci, in generale forse. Mario, cos'è che più ti ha convinto del tuo personaggio? Cosa ti affascinava? Ah, guarda, sai cosa? È caparbio, è proprio la testardaggine. Questo ovviamente è estremizzato in maniera inquietante, direi, perché poi vabbè, è una commedia, ricordiamolo, certo. Si ride, quindi non è che sono dei pazzi poi, insomma, c'è comunque l'aspetto di commedia, comico anche in tutto, però comunque c'è un taglio che Maurizio creda veramente tantissimo nei suoi sogni e tira dritto. Io sono uno che è abbastanza così per certi aspetti, nel senso che sono uno molto determinato, che reggo il peso delle cose, vado avanti, però lui lo fa in maniera molto più estrema, molto più forte, molto più coraggiosa. Quindi questo di sicuro è un aspetto affascinante di Maurizio, che lo rende un po' un eroe per certi aspetti negativi, ma comunque avvincente, credo, o quantomeno. E poi dall'altra parte la fantasia la utilizza nella maniera forse meno opportuna, però la fantasia di Maurizio, cioè come lui riesca a vedere dietro a un evento, una piccola cosa, tutt'altro, o a ricavarci tutt'altro, credo che comunque sia qualcosa di puerile, di bambinesco, di naif anche. Mm-hmm. E quindi questo modo di vivere la vita un po' così, con colori pastello nella testa, è bello, non possiamo farlo sempre, quindi mi sono divertito a farlo una volta nella vita, almeno nel film. Mario, in chiusura, dov'è possibile in rete trovare informazioni rispetto anche a un calendario di proiezioni? Guarda, noi abbiamo, grazie a Dio, un ufficio stampa fantastico che sta lavorando alla grande, c'è Francesca Argentero e molti altri che ci seguono, che seguono la nostra pagina, seguono i nostri social. Si può andare su Facebook, molto banalmente, alla pagina Press, Storie di False Verità, Press, proprio scritto Press con due S come stampa, tradotto. Storie di False Verità, ci sono tutti gli aggiornamenti, i contenuti speciali, mi hanno comunicato che in queste ore hanno addirittura deciso di pubblicare i nostri bloopers, e quindi tutti i miei errori e i miei beep ogni volta nel backstage, quindi ci sono anche dei contenuti molto curiosi e divertenti. E poi ovviamente in rete, digitando nella vostra città Press il film, si vede se c'è, in quale cinema, in quale città c'è, quindi potete, comunque Google ci aiuta tantissimo in questo, nel motore di ricerca, ma sulla nostra pagina si trova assolutamente tutto. Poi l'Istituto Luce come nostro distributore ha tutti gli aggiornamenti anche sul loro sito. Mario, un abbraccio, a risentirci presto. Ti abbraccio moltissimo, grazie ragazzi, vi seguo, siete forti. Ciao. A tutti. Mario Acampa, attore del film Press, Storie di False Verità. Dovremmo avere un ultimo collegamento. In collegamento con Fabio Pellarin, co-regista del documentario Nuove Terre. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie del benvenuto. Sono contento di poter parlare su una radio che ho seguito per anni, sin dalla nascita. Sì, mi raccontavi questo quando ci siamo sentiti proprio per invitarti in trasmissione. Allora Fabio, sì. Nuove Terre, ci racconti un po' di questo progetto, intanto com'è nata l'idea? Ma, guarda, l'idea, il tutto è stato un fatto occasionale, sì. Nel senso che un professore dell'Università di Viterbo, il professor Senni, che è un'autorità in Italia nel campo dell'agricoltura sociale, è uno che si occupa di questi temi da anni, aveva fatto in anni passati un suo documentario di tipo però giornalistico, diciamo così, con la società che poi ha fatto la produzione esecutiva di Nuove Terre. Il professor Senni ci aveva avvisato nell'estate del 2015 che esisteva un bando del Ministero delle Politiche Agricole, del MIPAF, nell'ambito di tutta l'operazione di Expo, che poteva essere interessato perché offriva degli spazi. Io mi sono letto il bando e ho capito che ci si poteva inserire proprio un progetto di tipo audiovisivo, e quindi ho pensato a questa, a una cosa che raccogliesse delle storie dell'agricoltura sociale, però non volendo essere assolutamente didattici e raccontando che cosa l'agricoltura sociale è, ma cercando delle storie personali o comuni di più, di più gruppi in certe situazioni, che potessero ridare con le loro voci il senso di questa, appunto, di quello che è l'agricoltura sociale, lasciando il concetto sullo sfondo nel background. Mm-hmm. E quindi su questa linea abbiamo partecipato al bando, e quando abbiamo scoperto che al bando concorrevano 750 e più soggetti, eravamo sicuri, visti che il finanziamento valeva per 25 progetti, eravamo sicuri che mai più saremmo stati selezionati. E invece poi la cosa è andata bene, e a quel punto poi ci siamo mossi nella ricerca, appunto, delle storie da raccontare. Esisteva già di base un libro che il professor Segni aveva fatto con suoi collaboratori ed assistenti, che avevano raccolto in giro per l'Italia una serie di, appunto, di storie più o meno esemplari. Alcune di queste le abbiamo scelte, altre, cercando e dirimando, le abbiamo man mano scoperte. Alla fine ne abbiamo scelte 5 che sono molto diverse da loro, e che vanno dal Piemonte alla Calabria, e che secondo noi illustravano un po' gli aspetti diversi, appunto, di come poteva essere declinato il concetto di agricoltura sociale. Mm-hmm. Ecco Fabio, queste 5 esperienze, quali sono i loro elementi qualificanti per quello che hai potuto vedere? Di queste 5 esperienze, allora, ne abbiamo una che racconta la storia di 3 migranti. Sì. Sono migranti che arrivano in una onlus che si chiama l'Orto dei Ragazzi, che sta in periferia a Torino, sulla collina torinese, dove transitano, appunto, migranti in attesa di poter ottenere lo stato di rifugiati politici. Questo Orto dei Ragazzi ha poi una serie di contatti con piccole cooperative, piccole situazioni di agricoltura nei dintorni di Torino, per cui queste persone che transitano lì spesso riescono a trovare delle situazioni in questi casi. Due di questi ragazzi transitati da lì lavoravano in una cooperativa, una piccolissima azienda agricola fuori di Moncaglieri, e un altro di questi ragazzi afghano invece lavorava proprio all'Orto dei Ragazzi, che raccoglie poi e distribuisce prodotti agricoli ad una serie di clienti che ha a Torino. E questa era una, e ci sembrava assolutamente di attualità, anche perché nei racconti di queste persone uno si vede che dove c'è la possibilità di trovare un lavoro, queste persone lavorano e lavorano bene. Due, nello stesso tempo, tutti e 3 questi personaggi ci hanno raccontato che loro vorrebbero tornare ai loro paesi d'origine, i due ragazzi africani e il ragazzo afghano, che quindi non vogliono stare qui, non vogliono arrivare in Germania oppure in Svezia, ma vorrebbero poter tornare nelle loro realtà. Uno di questi poi dicendo chiaramente: con quello che ho imparato qui vorrei poterlo trasmettere e portarmelo nella mia realtà in Costa d'Avorio. E questo è uno. Un'altra situazione invece è completamente diversa, e sono tre personaggi in qualche modo alternativi, due giovani ed una persona molto più anziana di loro, che hanno ottenuto, incomodato dalla diaconia valdese a Torre Pellice, una di quelle valli dove i valdesi sono molto presenti e molto attivi, hanno vinto un bando in cui la diaconia valdese dava incomodato dei terreni, e questi tre personaggi, che non sapevano nulla di agricoltura, si stanno impegnando e stanno facendo di tutto per vincere questa sfida. Due sono dei giovani che hanno scoperto l'agricoltura come possibilità di fare qualcosa in un paese che, attanagliato dalla crisi, non offre certamente tante situazioni, e la persona più anziana invece è un musicista folk, suonatore di flauto, il quale, attraverso una serie di storie personali finite male, matrimonio, lavori che non riusciva più a fare perché non c'era più interesse evidentemente delle cose che faceva, eccetera eccetera, si è trovato addirittura a dormire per strada, ad affidarsi alla Caritas, e attraverso una combinazione di amicizie è andato in valle, dove ha conosciuto questi due, e quindi c'è questo strano terzetto che sta facendo di tutto e sta portando avanti questa sfida, proprio per non si vogliono arrendere alle difficoltà che ci sono di coltivare la terra, delle cose che vanno una volta non funzionano un'altra. Sì. E la cosa bella, secondo me, che veniva fuori è questo dialogo continuo che c'è tra tutti e tre. Su ogni cosa c'è una discussione, un piccolo assemblarismo di tipo sessantottino. E questa è una terza situazione, invece, proprio qui a Roma, all'interno del raccordo anulare, c'era uno spazio di proprietà del comune, che il comune ha dato incomodato a una cooperativa che era già nata ai Castelli Romani, che si chiama Capodarco. Erano nati a, adesso non mi ricordo se a Albano o Genzano, in ogni modo sui colli, e dove, diciamo, questa forse è quella più tipica, più istituzionale nel senso di quello che può essere l'agricoltura sociale, perché in questa cooperativa lavorano tutta una serie di ragazzi che hanno delle disabilità e fanno parte però a pieno titolo, con il loro lavoro, portati avanti da persone che le seguono, ma con il loro lavoro fanno parte proprio del momento produttivo della cooperativa, e hanno poi, attraverso questo lavoro, che è un lavoro manuale, un lavoro di contatto con la terra, hanno una presa di coscienza, appunto, di poter essere in qualche modo utili anche loro. E la quarta cosa è invece una storia che abbiamo raccolto in Calabria, la Lamezia Terme, dove è nata 5-6 anni fa una piccola cooperativa agricola fatta di donne e da donne, si chiama infatti Cooperativa Le Agricole, che è nata come, come costola di una, di un gruppo di persone che faceva già volontariato nei confronti dei disabili, eccetera eccetera. In questa cooperativa agricola c'è una contadina, una vera contadina, l'unica che conosce la terra, una contadina che sembra fisicamente una scuola, sembra la moglie di Toro Seduto, un personaggio di una simpatia unica e di una capacità poi di raccontare le cose, di cogliere le cose, veramente incredibile. Ha fatto certi discorsi che da economista. E questa cooperativa Le Agricole convive però in una situazione dove l'andrangheta è assolutamente presente. La loro sede è dentro un edificio confiscato all'andrangheta, ma hanno subito negli anni delle manomissioni nel campo, nel terreno che coltivano, e proprio non più tardi di una quindicina di giorni fa ho sentito la loro presidente che mi raccontava che erano state bruciate in una notte, gli hanno bruciato le serre, per cui sono queste persone che vivono proprio in una situazione di confine, e con grande forza e con grande sforzo portano avanti questa situazione, che però diventa dal punto di vista della produzione, del potersi mantenere, realmente difficile. E l'ultima invece, e l'abbiamo lasciata per ultima nel documentario, perché le altre quattro storie sono tutte storie che in qualche modo hanno una prospettiva e una speranza, perché si rivolgono al futuro. E invece l'ultima storia è, e l'abbiamo raccolta in Toscana, la storia di un ex degente dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, che esce dall'ospedale psichiatrico ai tempi della legge 180 di Basaglia. All'ospedale psichiatrico di Arezzo poi lavoravano persone che erano legatissime con Basaglia, e questo Moreno, questo ex degente dell'ospedale psichiatrico, viene affidato dall'ASL a dei giovani che stanno mettendo in piedi una cooperativa agricola, e questo succede nel 1978-79. Questo Moreno fino adesso è stato in questa cooperativa, di cui c'è praticamente un conduttore, ed è nata al di là di tutto una grandissima amicizia ormai quarantennale. Moreno ha partecipato per quello che poteva e per le sue forze, per le sue cose, al lavoro all'interno della cooperativa, e però adesso si pone il problema proprio che tutto questo sta finendo, gli anni sono passati. Moreno vorrebbe andare in pensione perché sente parlare della pensione e pensa di poterci arrivare anche lui, e quindi il finale di questa storia era diciamo un po' un crepuscolo, proprio perché come ci diceva Marco, che è il conduttore della cooperativa, dice: bisogna che ora ci inventiamo qualcosa di nuovo, perché sono passati tanti anni, noi abbiamo avuto sempre questo rapporto, e adesso che sono passati gli anni non possiamo pensare di mettere Moreno in qualche ospizio, in qualche centro per anziani, ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. E quindi ecco, queste sono le cinque storie che Sì, no, volevo chiederti dove sarà possibile vederle e in questo senso se c'è una pagina Facebook o un sito internet per saperne di più di questo documentario. Allora, c'è un sito internet che è www.nuoveterre.com. Sì. Perché punto it era già occupato, abbiamo scoperto che erano dei fabbricanti di scarpe. E sul sito ci sono tutte le cose, ci sono dei link per vedere i documentari su Vimeo. Sì. Mentre abbiamo cercato un rapporto con la televisione, perché la società che ha fatto la produzione, il progetto è stato finanziato dal Ministero, anche se la società deve prendere ancora praticamente metà del budget con i tempi ministeriali, metà del budget previsto lo deve ancora ricevere, con tutto che il lavoro è finito da 8-9 mesi. Speravamo di poterlo fare passare in televisione, perché la società può farne quello che vuole di questi documentari, ma non a fini di lucro, per cui non può venderlo alla televisione. Mm-hmm, capito. Eravamo convinti che la televisione, che la RAI potesse prendere questa cosa a titolo gratuito, e invece per una serie di motivi burocratici la RAI, queste cose devono passare per l'ufficio acquisti e non è prevista una forma. Lo fanno. Come? Lo fanno, succede. Allora abbiamo cercato di intervenire sul Ministero e dire: parlatevi voi come istituzioni, certo. Trovate voi se c'è il modo, perché ci dispiace, perché il documentario poi ha girato per una serie di festival, io sono stato invitato all'università a Ca' Foscari a Venezia in un convegno che trattava di questi temi, è stato presentato, e dove l'abbiamo presentato ha avuto molto successo, con tutte le persone che ci chiedevano appunto come si può vedere, come si può fare. Avevamo cercato anche di convincere il Ministero di intervenire magari con una piccola cifra da investire per produrre una serie di DVD da dare a titolo gratuito, in modo che noi li facessimo. Però poi queste cose molto spesso il ministero fa il suo investimento e poi non è capace di raccogliere frutti. Sì, sì, sì. Per dire, il documentario ha ricevuto anche un premio proprio recentemente, inizio luglio, a un festival che si fa vicino a Padova, che si chiama Euganea Film Festival. Sì. Ed ha avuto una motivazione del premio molto bella, che si può leggere sul sito. E siamo stati invitati anche al festival di cinema ambiente che si fa a Torino. Sì. E anche lì ha avuto un successo, perché veniva proiettato proprio in un cinema che faceva parte dell'organizzazione del festival. Capito. Allora, Fabio, e purtroppo queste cose sono, è rimasta un po' così, siamo molto dispiaciuti, appunto, speravamo di poter avere un'uscita ufficiale sulla RAI, e tutto questo invece non è successo. Beh, se ci saranno novità ci farai sapere a questo punto. Sì, certamente. Fabio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. D'accordo, ciao. Arrivederci, grazie a voi. Ciao. Fabio Pellarin, co-regista del documentario Nuove Terre. Con questo concludiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. La prossima settimana torna però anche Tracce di Cinema alle 15, quindi alle 15 cominciamo con Tracce di Cinema. Oggi siamo andati un po' oltre. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Per saperne di più sulla scaletta e la trasmissione, sul sito, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. È tutto, buon proseguimento